Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. In FM quest'anno questa bellissima collaborazione tra il web Radio Eco Sud FM e anche Radio Eco Sud è sul web. Iniziamo subito a chiacchierare con la nostra ospite di questa sera direttamente da Non Solo Turisti, perché la nostra prima parte la dedichiamo a loro, agli amici di nonsoloturisti.it. Abbiamo aperto ormai, questa è la terza puntata, abbiamo aperto la prima puntata con Luca Peressinotto, poi è venuta a trovarci Barbara Ciccola, perché se sbaglio il cognome Barbara mi ammazza, e questa sera invece Francesca Manfredi. Ciao Francesca, buonasera e ben ritrovata. Ciao, buonasera a tutti, ciao Beppe. Allora Francesca, con te chiacchieriamo di questo bellissimo viaggio che hai fatto ad Oslo in 5 giorni. Sono stati pochi, sì. La prima domanda? No, sono stati sufficienti per visitarla, sì sì, mi sarei fermata anche di più per visitare magari dintorni, però per la città di Oslo sono sufficienti, perché non è che sia enorme, le cose da vedere non sono tantissime, poi si gira molto bene a piedi, quindi 5 giorni sono stati sufficienti. Come hai pianificato il viaggio, Francesca, per Oslo? Cioè, l'hai pensato da tanto oppure è stato un last minute? Ma guarda, no, ci pensavo da un pochettino, perché in Norvegia non ero mai stata effettivamente, e allora ho pensato, beh, partiamo dalla capitale, poi a me le capitali del nord piace visitarle in inverno, magari con la neve, con le luci natalizie, con i pub caldi, con la musica, e quindi ho detto, ma partiamo dalla capitale, poi vediamo magari in un futuro di visitare anche il resto dello stato. Ed effettivamente mi è piaciuta molto Oslo, mi è piaciuta molto, mi sono trovata bene, un'atmosfera molto tranquilla, molto serena, molto, molto rilassata, diciamo. Mi piace soprattutto l'introduzione del tuo articolo, come parli della città di Oslo. Sì. Beh, guarda, già Oslo nasce da due termini antichi che sono os più lo, cioè pascolo di Dio. Quindi veramente tipo pascolo del cielo, pascolo di Dio, e un po' questa idea te la dai, perché c'è molta tranquillità, molto silenzio, molto un ritmo di vita direi rilassato. Come è scritto nell'articolo, per noi italiani cacciaroni. Sì, noi italiani siamo molto più chiacchieroni, cacciaroni, sai, entri in un bar, entri in un ristorante, senti parlare ad alta voce i bambini che schiamazzano, lì veramente entri in un qualsiasi luogo pubblico, anche bimbi di 3 anni parlano sottovoce, i genitori parlano sottovoce, e questo ti stupisce un po', perché noi non è che siamo molto abituati, ecco. Diciamo. Infatti mi ha dato un po' l'idea la città del silenzio, un po', perché veramente tutto molto molto tranquillo, molto sottotono, molto rilassato. Poi sai, lavorano meno ore rispetto a noi, alle 4:30 sono fuori dal lavoro, la gente si fa il suo giro in centro, beve qualcosa, noi siamo più frenetici un po' in tutto, ecco, diciamo. Infatti, e come è iniziato? Sei arrivata ad Oslo e che cosa hai fatto? Raccontaci un po'. Allora, sono arrivata ad Oslo e io avevo preso un volo Ryanair e quindi lo dico subito, l'aeroporto è un po' lontano, è circa a 150 chilometri, però scusa, all'uscita dall'aeroporto hai subito o il treno o l'autobus che ti porta in centro, quindi è molto comodo, in un'oretta e un quarto arrivi, insomma. E poi dopo, una volta sistemati in hotel, sono partita visitando proprio a piedi un po' la città, per farmi un'idea un po' del centro storico, del Palazzo Reale, di tutta questa parte ottocentesca con questi palazzi antichi, decorati, molto molto belli, e poi pian piano ho deciso che cosa vedere, però il primo impatto è proprio come faccio solitamente, proprio un giro per la città per sentirne un po' l'umore, ecco. Poi dopo ho deciso di visitare il Museo delle Navi Vichinghe perché mi interessava, il Museo di Munch, pian piano nei vari giorni poi ho scelto le varie mete, ecco. E poi soprattutto nell'articolo vedo delle splendide fotografie di queste navi vichinghe, cioè sì, sono enormi, no? Sono enormi e sono tre navi dell'Ottocento d.C. che sono state ritrovate nel fiordo di Oslo proprio tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, in uno stato di conservazione perfetta, direi io. E sono uniche al mondo perché poi erano navi funebri. E quindi dentro è stato trovato tutto il corredo funebre, appunto, dei defunti che venivano seppelliti con suppellettili, oggetti in avorio, animali, cavalli, cani, in una o due vacche addirittura sono state ritrovate. E poi tutti questi oggetti veramente splendidi, slitte, tutte intarsiate, decorate, carri, teste in avorio di animali, serpenti, mostri marini. Un po' di tutto, ed è un museo veramente veramente affascinante, perché è un po' inusuale, sai, noi vichinghi proprio una cultura diversa dalla nostra, che è più classica, e quindi siamo abituati a uno stile decisamente diverso, insomma. E a me è piaciuto molto, secondo me è una cosa assolutamente da visitare, anche perché poi è un pochettino fuori Oslo, ma prendi l'autobus e arrivi in un quarto d'ora, eh. Tra l'altro in una bellissima penisola tutta verde, con queste casettine bianche dai tetti aguzzi, vale la pena anche fare una passeggiata proprio in questa penisola. Infatti hai ragione. Dove ci sono tra l'altro vari musei, quindi insomma. Allora Francesca, ci andiamo ad ascoltare un brano, una piccola pausa pubblicitaria, ritorniamo subito in diretta e parliamo di origami, del museo di Munch e di tante altre cose ancora in tua compagnia, va bene? Perfetto, grazie, ciao! Il viaggio. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Il viaggio. Ritorniamo nuovamente in diretta qui su Radio Stonata e Radio Eco Sud. Vi ricordo questa nuova avventura che ci vede protagonisti per l'appunto sull'FM e sul web con Radio Stonata in FM con Radio Eco Sud, e ritorniamo in diretta a chiacchierare con la nostra Francesca Manfredi, che ci sta raccontando i suoi 5 giorni ad Oslo. L'abbiamo lasciate le navi vichinghe e ora entriamo nel museo di Munch. Cioè, sì. Com'è stato? Allora, dimmi com'è stato entrare in questo museo. C'è da dire innanzitutto che è un museo ristrutturazione, quindi hanno selezionato solamente i capolavori, tipo la Madonna, tipo l'Urlo, quelli insomma famosissimi, il Vampiro, perché tutti gli altri dipinti stanno organizzando un grande museo nel centro di Oslo, e quindi è un anno che gli altri dipinti di Munch, perché ce ne sono più di 1500, insomma, anche compresi i disegni, le incisioni, saranno destinati a questo nuovo museo che è in via di costruzione. Quindi lì hanno lasciato, che è un pochino fuori, hanno lasciato solo i capolavori, però è sicuramente d'impatto perché sono quadri che abbiamo nella memoria tutti, immagina l'Urlo, immagina queste, insomma, gli altri capolavori, quindi sì. è veramente d'impatto, ti rimani incantata veramente, anche solo vedendo le 50 opere, però è imperdibile, insomma. Munch è l'artista più importante norvegese, quindi assolutamente da non perdere, ecco, da non perdere. Poi tra l'altro è vero che fuori, ma con una passeggiata di mezz'ora poi si arriva tranquillamente a piedi anche lì, quindi come dicevo non è una città vastissima, le cose si visitano invece bene. Invece i laboratori di origami? Ah, questa è una cosa simpatica, una volta usciti dalla galleria, c'è questo tavolone dove ci sono libri che ti insegnano a fare gli origami, dove ci sono fogli colorati, e tu puoi, guardando un po' questi libri, creare la tua opera e poi lasciare un tuo ricordo della visita al museo. E Francesca, ti puoi mettere lì, creare qualcosa. Poi c'è più scaffali coloratissimi con tutti gli origami fatti dai visitatori. Io ho tentato, è venuto una schifezza, quindi ho anche evitato, però insomma l'iniziativa era simpatica. Francesca, una cosa carina anche per i bambini che vengono a visitarlo, fermano lì mezz'oretta. Un'altra cosa che io stavo riguardando l'articolo in questa settimana, l'ho rivisto tante volte, l'ho riletto, ho guardato le foto, le spulcio in lungo e in largo, no? E fuori onda con te stavamo parlando del quartiere della moda, ma poi in una foto c'è la tua faccia riflessa nella vetrina, sei tu quella, sì, vero? Sì, col cappellino. col cappello a pompon per il freddo. sì, sono io che sto fotografando. Non è che sia una gran fotografa io, no, quindi... Francesca, e poi fuori onda io ti ho chiesto, ma che cos'è? Cioè, un abbigliamento intimo fatto di pelle di pitone, mi dicevi. Beh certo, perché nel quartiere alla moda trovi tutte le stranezze. Questo quartiere si chiama Grünerlocker e ultimamente è il quartiere dove espongono tutti i giovani artisti, giovani architetti, designer, ci sono negozi di vintage dove trovi le cose più strampalate. E io tra le varie cose, spulciando tra le varie vetrine, ho trovato un perizoma in pelle di pitone. Non so chi lo porterà, ma qualche pazzo lo comprerà, penso. E tra le altre cose, i denti d'oro. In una vetrina erano esposti dei denti d'oro che ti puoi fare impiantare, stile Madonna, che un tempo aveva il dente d'oro anche lei, e quindi puoi entrare, chiedere il tuo dente d'oro, te lo ricoprono, te lo impiantano, io non ho idea. Perché non è poi sì tante altre cose. Invece, particolari, poi sei stata anche al Teatro dell'Opera del Balletto, no? Teatro dell'Opera del Balletto, che è un po' sì, il simbolo della nuova Oslo, che è stato costruito da questo architetto molto famoso, che tra l'altro è quello che ha ricostruito anche la nuova biblioteca mitica di Alessandria d'Egitto. Uh-huh. Ed è veramente un'opera di acciaio e vetro, bellissima, in cui si riflette il mare, puoi salire attraverso appunto uno scivolo fin sul tetto, e uh-huh, ci sono, durante il periodo nevoso, insomma, ci sono i bambini che scendono dal tetto in slittino, ed è veramente un'opera molto molto bella, che si affaccia sul mare, che riflette tutti i colori del mare del nord, quindi molto molto molto interessante. Poi ci sono tante altre architetture moderne di Renzo Piano, di altri architetti, e come dicevo un po' nel post, secondo me Oslo è riuscita a fondere molto bene l'antico con il moderno, cioè non stonano proprio, hanno creato un buon connubio, veramente riuscito. E poi invece c'è anche uno splendido parco, no? C'è questo splendido parco, che è sicuramente più bello visitato in primavera, in estate, perché è veramente molto ampio, e dove ci sono tutte queste sculture, questi gruppi monumentali dello scultore Vigeland, che si può visitare, tra l'altro è gratuito in tutte le stagioni, ma io l'ho visitato in inverno. Ti dico, a me, per quanto riguarda il mio gusto personale, ho trovato queste sculture un po' angoscianti. Poi sì, forse è un po' il mio sentire, ecco, questi grovigli di corpi, queste cose mi rimandavano un attimino sempre ai centri di sterminio nazisti, tutti questi corpi aggrovigliati, queste membra, sì, un pochettino. Ma questo è un po' il mio sentire, ecco, quindi sì, la tua impressione è stata questa, dai. È sicuramente spettacolare, ecco, vale la pena visitarlo. Poi soprattutto è stato un pochino questo. Francesca, la fortezza, no? Anche questa bellissima fortezza. La fortezza medievale, un'altra parte di Oslo assolutamente in centro, e lì, come dicevo, è la quiete assoluta, perché sei su questo rilievo con la fortezza in alto, quindi passeggi nelle stradine medievali. La fortezza non si può anche visitare, io non l'ho visitata, proprio mi sono goduta tutta la zona più antica, la zona medievale di Oslo, e lì veramente le piazzettine alberate, veramente una grande pace, veramente una grande Francesca, poi, tranquillità. Andiamo a concludere, però prima di concludere vorrei da te alcune considerazioni, soprattutto su dove dormire e i costi, sui mezzi pubblici, sì. E poi decidi tu come chiudere. Guarda, i prezzi sono veramente alti. Sono veramente alti. Io ho preso un ostello. Nota dolente, quindi. Sì. Io ho preso un ostello, il prezzo in centro, e con una camera privata, eravamo in due, e quindi con i servizi interni, così, non la camerata, insomma. E il prezzo dell'ostello, molto bello, molto pulito, molto moderno, erano quelli da noi di un albergo a 3 stelle praticamente. Mm-hmm. E quindi, insomma, da noi l'ostello costa molto meno. E per quanto riguarda il cibo, è molto molto costoso. Ti faccio un esempio: una zuppa di verdure costava sui 35 euro, uh-huh. Un tè, perché io spesso mi fermavo a bere il tè, mi piace, 5 euro costa, uh-huh. E quindi noi abbiamo risolto comprandoci il cibo, c'era l'uso cucina, facevamo una colazione abbondante, e poi dopo c'era l'uso cucina, e la sera ci cucinavamo nell'ostello. Tra l'altro tutti facevano così, avevi modo anche di conoscere persone simpatiche, interessanti, dalla Spagna alla Corea, insomma, e quindi noi abbiamo risolto così, perché veramente la zuppa di verdure che mi faccio io a casa, anche no, 35 euro. Poi insomma non è che un pezzettino di salmone 50, anche no, insomma, sinceramente. E invece i mezzi pubblici come erano? Non è quella cucina, secondo me, non è quella cucina squisita che, perlomeno, che da non perdere, ecco. Francesca, io invece ti stavo chiedendo dei mezzi pubblici, come sono? Perché no, sai perché te lo chiedo? Perché è scritto nell'articolo che sono puntualissimi. Sono puntualissimi, molto funzionali, il biglietto lo puoi fare direttamente sull'autobus, cari, io l'ho preso solo 2 volte, però ti dico, perché ho girato tanto a piedi, sui 5 euro il biglietto d'autobus, 5 andata, 5 ritorno, e l'ho preso appunto per andare al Museo delle Navi Viking e per andare al Parco Vigeland, il resto l'ho girato tutto a piedi. Però devo dire molto puntuali, molto puliti, molto, ce ne sono tantissimi, non devi aspetti 3 minuti e vai, però costosi, cioè la vita è costosa decisamente. Mm-hmm. Si può anche fare l'Oslo Pass, che include l'ingresso a diversi siti, alla metropolitana, ai riscontri su vari musei, però ti dico, io girando tanto a piedi non ne ho avuto bisogno. Poi l'ingresso dei musei è uguale all'Italia, 10, 8, 6 euro, quindi per me non era conveniente, perché comunque per 48 ore costava più di 80 euro, io ho speso molto meno, però volendo uno che magari ha meno voglia di camminare a piedi, ha voglia di... chiaramente è un po' più pigrone, conviene, insomma. Quindi. Francesca, dai... non c'è altro da aggiungere, se no io ti devo veramente salutare e ti dico grazie per adesso, spero di sentirti prestissimo di nuovo qui su Radio Stonata e su Radio Ecosud per chiacchierare con te. Perfetto, io saluto tutti e saluto te, Beppe, e alla prossima. Grazie Francesca, ciao e buona serata. Grazie, ciao. Il viaggio.